Apriamo subito la nostra diretta letteraria con il Voltiamo Pagina. Siamo leggermente in ritardo quest'oggi, che Silvia è puntualissima, quindi iniziamo. Buongiorno Silvia, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno ben arrivata. A te. Buongiorno anche a Stefano, il nostro notaio, che oggi, oltre che la parte tecnica dedicata al video della settimana, avrà anche motivo di assicurare ufficialmente i due premi che verranno dal Voltiamo Pagina. Quindi suoniamo la campanella, partiamo. Non è una campanella a scuola, da quello che ho capito, ma è una campanella che ci porta su un ring. Non vorrei aver intuito male, ma tant'è. A te la parola, Silvia. Hai intuito benissimo. Oggi parliamo di un libro che ha alla base la box, ma in maniera molto particolare. Si tratta di La distanza di Ivan Vladislavic, uno scrittore sudafricano molto importante, edito da Utopia. Dunque, è la storia di due fratelli, raccontata da loro stessi. Il libro è diviso in capitoletti molto brevi, in cui si alternano le voci dei due fratelli, Branko e Joe, che all'inizio ti sembra che raccontino la loro, semplicemente, la loro infanzia e i loro ricordi di infanzia e di primissima, direi di preadolescenza, non più tardi, nel Sudafrica degli anni 60. E questo già è molto interessante, perché hai sia il discorso di un romanzo di formazione, un romanzo, e sia il discorso di un romanzo invece anche fra le righe politico. Perché vedi come viveva la classe media, medio-bassa, diciamo, bianca, sudafricana, in regime di apartheid. C'è anche un'altra curiosità, che Ivan Vladislavic dal Sudafrica è, come dire, di Kembe Mutombo da San Pietroburgo. Hanno dei nomi esattamente, sì, un po' perché così. Avrà delle origini. La sua famiglia senza dubbio è di origini slave, però lui è nato in, certo, Sudafrica, ed è sempre è riconosciuto come uno dei massimi scrittori sudafricani bianchi. Dunque, dopodiché, man mano che va avanti il romanzo, ti rendi conto che c'è qualcosa dietro, anche perché dei due fratelli il più grande è ligio al discorso di raccontare della famiglia, della loro famiglia, negli anni 60, mentre il piccolo, il più giovane, ha questa passione, che non è una passione, è una ossessione quasi, per Muhammad Ali, cioè Cassius Clay. Per cui lui, infatti così comincia il libro, con lui che racconta, e poi va avanti, tutte le situazioni familiari le lega a un combattimento di Cassius Clay, anche perché lui ha conservato nel corso del tempo, fin da bambino piccolissimo, tutti i ritagli di giornale che ha potuto trovare su ogni incontro di Cassius Clay, ma anche su ogni intervista. Lui ha 7 album enormi in cui ha conservato nel corso del tempo questi ritagli. E quindi, prima di tutto, c'è il ricordo, diciamo, così come è filtrato attraverso i giornali, di questi incontri, e poi cosa faceva lui in quel periodo, eventualmente, ma non sempre, mentre l'altro proprio non è interessato minimamente alla box. Allora, c'è anche da dire una cosa per capire questa ossessione del fratello minore, che negli anni la televisione in Sudafrica è arrivata nel 1975, quindi 20 anni dopo che da noi. Conseguentemente, tutto quello che loro imparavano su questi eventi era attraverso i giornali. Il giornale aveva un'importanza enorme, e lui infatti spesso sottolinea anche il diverso modo di raccontare dei cronisti di pugilato rispetto a quelli di, che so, di ciclismo, per dire. Di altri sport. Potrebbe fare un move to groove sul pugilato. Sì, sì. No, non sul pugilato. Su Muhammad Ali. Sì, è vero, su Muhammad Ali. E quindi, insomma, c'è questo bilanciamento tra la storia personale di questa famiglia e la storia sociale del Sudafrica, il tutto filtrato attraverso una cosa che sembra che non c'entri proprio niente, la storia di di Muhammad Ali e il fatto che poi in Sudafrica aspettavano sempre che si organizzasse un incontro con chi che sia, non importa, certo, di Muhammad Ali, e tutte le volte che stava per essere realizzato naufragava. Si arriva a un certo punto, però, verso metà del libro, cominciamo a capire perché questa strana bipartizione, perché il fratello più piccolo, il fan di Muhammad Ali, diventato grande, è diventato uno scrittore importante e vuole scrivere un libro su Muhammad Ali, ma non ci riesce. Vuole farlo attraverso i suoi, mettendo in campo tutti i suoi ritagli, eccetera. Ricordi, sì. Ma non ci riesce, anche perché vorrebbe fare un libro un po' particolare, che attraverso la storia di Muhammad Ali in qualche modo filtrasse anche la storia della sua famiglia. Quindi chiede aiuto al fratello maggiore, che di mestiere fa l'editor, quindi in qualche modo... Ah, guarda, potrebbe dare una mano concreta e lui di contenuti, potrebbero fare un buon lavoro. Potrebbero fare un buon lavoro. Il fatto è che il fratello maggiore non ha alcuna voglia di farlo. Immaginavo. Non se ne interessa minimamente di pugilato e insomma, ci mette su piede. Poi succederà qualcosa per cui, quando finalmente prende in mano questo libro, è troppo tardi. Però a questo punto noi abbiamo già la netta sensazione che il libro che stiamo leggendo è il libro che è riuscito a fare il fratello maggiore, mettendo insieme le parti del più piccolo, dello scrittore, certo, e quello che lui e i suoi ricordi. Ma lo capiamo solo, direi, quasi all'ultima pagina. Beh, c'è tanto in questo libro. C'è tantissimo, sì. La passione, il portare avanti un sogno che è la realizzazione di un libro, la storicità di un immenso personaggio come Muhammad Ali, un aspetto territoriale molto difficoltoso come il Sudafrica, c'è molto, la famiglia. Nell'ultima parte, per esempio, è molto forte il discorso della difficile posizione, appunto, diciamo, dei bianchi, se non liberal, comunque dei bianchi non razzisti, diciamo, nel progressisti, che è un po' una parola, sì, un po' estrema. Sì, perché liberal, il padre non è tanto progressista. Però è bianco. È bianco, sì. Nei confronti, appunto, nella situazione dell'apartheid e nei confronti dei neri, e poi c'è il dopo Mandela, quindi il dopo la fine dell'apartheid, e quindi la rabbia dei neri contro i bianchi. Tutte queste cose sono appena appena abbozzate nell'ultimissimo capitolo, che poi è il più breve. Ma ci sono e filtrano tra le righe anche nella narrazione totale. È un libro abbastanza corposo. Una cosa, per esempio, che io non avevo mai trovato nei libri del sudafricani scritti da bianchi è la differenza che loro sentono, che i bianchi, non saprei come definirli, i bianchi bianchi, diciamo, sentono già nei confronti degli afrikaner. Sì. Cioè i bianchi che parlano afrikaans e che sono di origine boera. Cioè, già questi bianchi più anglicizzati, diciamo, sì, li vedono, cioè loro guardano, per esempio, ai vicini da bambini, ai vicini di casa, c'è una bambina due case più in là, che loro così guardano, eccetera, ma non hanno piacere di giocare, la famiglia non ha poi tanto piacere di conoscere, che giochino, sì, con che lei giochino con o lei, che di conoscerla, perché sono afrikaner. Sì, e quindi poi contiamo anche che c'è tutta la tradizione boera, che è quello l'Olanda, sì, tanti hanno messo le mani nel Sudafrica, ovviamente a spese della popolazione che abbiamo visto con l'apartheid soffrire di oltre che difficoltà. Tanti contenuti in questo lavoro di Utopia, che è una casa editrice che ho seguito per lungo tempo. Questo, ahimè, mi è sfuggito, ma grazie Silvia, guarda, che mi dà la possibilità di recuperarlo. È uscito proprio in questi giorni. Ecco perché. Vorrei aggiungere una cosa, è tradotto benissimo. Veramente, raramente mi è capitato di leggere un libro. A te è piaciuto? Tradotto. Sì, mi è piaciuto. Ti è piaciuto. Mi è piaciuto, anche se tutte queste parti sulla box, sinceramente, per me sono un po' pesanti. Perché sono io non, certo, non sei un appassionato, non sono appassionata di sport in generale, per cui già il libro sportivo già non mi piace, però questo è molto bello. Tutta il discorso familiare, il discorso della crescita di questi ragazzini e del rapporto tra questi due fratelli è veramente molto bello. È un libro che ha una costruzione molto particolare e che, nella quale all'inizio si fatica a entrare, cioè è uno di quei libri che dopo le prime 10 pagine saresti tentato di dire no, basta. Ah, sono quelli che mi piacciono di più, invece, perché devo andare avanti. Se fai tanto di superare lo scoglio dell'inizio, che è un po' pesantino, dopo ti appassiona. Certo, immagino, anche perché le edizioni Utopia sono veramente molto di ricerca, danno molta curiosità, un lavoro che, come abbiamo già detto più volte, dà attenzione a una linea extraeuropea, anche a livello di Europa, con grandi scrittori del Novecento, certo, ma lo sguardo oltre lo sa dare, come con gusto e lo stesso tempo qualità di ricerca. Non sarai un'appassionata di box, un po' lo sospettavo, conoscendoti così, ma con Stefano hai portato una playlist che è attinente. È tutta di canzoni, di brani che in qualche modo hanno a che vedere con la box, o direi 3 su 4 proprio con la box. E quindi partiamo e una, con metaforicamente, Eye of the Tiger, colonna sonora di Rocky. Non ci ho pensato. Siamo andati un po' oltre. Più che altro non me neanche venuto in mente. Quindi cominciamo con Simon e Garfunkel, The Boxer. The Boxer. A tra poco. Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. No more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Ho sempre sottovalutato Simon e Garfunkel, mea culpa, mea grandissima culpa, perché è veramente grandi talenti, Grazie Silvia per aver riacceso in me questa attenzione e nello stesso tempo questa lacuna. Questo è un brano veramente meraviglioso. Meraviglioso, sì, confermo. A boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders Poi queste due note baritonali sotto che accompagnano la voce di Simon e Garfunkel è molto particolare, un valore aggiunto nella narrazione musicale molto molto raffinata. Quindi questo libro non è in palio, lo diciamo subito, e per voi in palio vi è la sorpresa che vi arriverà in libreria Ubik. Potrete ritirarlo in confezione assolutamente anonima. Questo è un dettaglio che aggiungo, in quanto ovviamente dentro il libro c'è, questo lo stai confermando con un sorrisino un po' ironico, ma io confermo almeno al tatto che il libro c'è, conoscendo Silvia e anche la qualità certamente confermata. Una curiosità, è stato presentato? Sì, è stato, questo è un libro che abbiamo presentato qua. Bene, quindi e magari... che al tempo non potei mettere in palio perché stavo facendo la recensione. E aggiungo anche un'altra cosa, se magari il vincitore dice che bello e ci dice qual è il libro, oppure può essere anche che non sia piaciuto, perché no? Però sì, in tutti i modi almeno che ci scriva e sveli quelle, perché non lo so nemmeno io, ne sono curioso anch'io. E Lino, grazie Lino, buongiorno tra l'altro, tra i vincitori del quiz legati a Sant'Agata e San Giovanni in Persiceto, e lui aggiunge canzoni legate alla box, vedi stiamo stimolando il nostro ascolto a livello di playlist musicale, e dovrebbe piacerti anche questo suggerimento, Hurricane di Bob Dylan. Sì, volevo metterlo ma è troppo lungo, ho un altro Bob Dylan, sempre boxista. Guarda un po', sempre boxer. Sempre boxer, sì. Bene, bene, hai detto che è un libro ben tradotto, anche io ho un libro sì, ben tradotto. È un libro, tra l'altro, io non posso metterlo in palio perché il libro proprio me l'ha regalato la traduttrice, che è una mia collega di Torino, e mi sono molto ed è anche dedicato. più personalizzato di così. Per quello che non posso metterlo in palio. Mi sono molto stupita perché che lei fosse così brava a tradurre queste parti sportive, sì, perché so che non è una persona che si interessa né di box né di sport in generale, quindi penso che abbia fatto veramente una gran ricerca. Si fanno aiutare per esperienza diretta su un libro dove la pallacanestro ha lo stesso ruolo per quanto riguarda la box al libro da te appena presentato, e sono stato contattato da Fazzi con una traduttrice che ben conosciamo, sì, per alcuni aspetti più dettagliati sul mondo della NBA e della pallacanestro. Conoscendo qui questa brava, nulla toglie alla sua bravura. Certo, bisogna fare così. Assolutamente, anche perché è impossibile se no altrimenti. E comunque è anche un linguaggio abbastanza difficile, cioè un inglese non semplicissimo, perché conosco Vladislavic per altre cose e lei è un'esperta di Vladislavic, quindi quindi sì. È uno scrittore, io non lo conoscevo, affermato, sì, soprattutto famoso in Sudafrica, e uno in questo momento è uno dei, visto che la Gordimer è morta, Cozia si è trasferito in Australia, c'è rimasto Galgut, il nostro Galgut. Sì, volevo aggiungere, ne abbiamo già presentati, infatti, e volevo citare Galgut. E Vladislavic è molto importante anche perché si è fatto conoscere per una serie di libri che ha fatto insieme a un fotografo. Non mi ricordo lo sguardo di silenzio è stato d'intesa con il notaio. Insieme a un fotografo, a un famosissimo fotografo sudafricano di cui abbiamo visto anche un sacco di mostre. Bene, intanto Goldblatt, il notaio ha confermato Goldblatt, e lui ha fatto una serie di libri, di fotolibri con Goldblatt. Molto importanti, e da lì poi dopo è passato anche al romanzo sì, senza illustrazioni, diciamo. senza immagini. Ma per avere questo lavoro, edizione Utopia, titolo e autore, allora Ivan Vladislavic, La distanza, edizione Utopia. Mentre invece, per avere la sorpresa legata al voltiamo pagina, direi che è il momento di annunciare il quiz, cara Silvia. Ok, allora, un famoso cantante italiano ha scritto parole e musica e inciso un brano intitolato Cassius Clay. Io voglio il nome di questo cantante. Autore e interprete? Autore e interprete, no, sì, ha fatto parole, musica e l'ha pure registrato. Del protagonista anche dell'Ipco, insomma, del... si può, sì, dire, ecco, del, sì, personaggio. Sì, sì, sì, ah, sì, ruota tutto intorno a lui. E noi abbiamo invece uno sparring partner. Sì, abbiamo un altro italiano. Aspettiamo le vostre risposte. Chi è stato l'autore e interprete del brano italiano Cassius Clay e per voi il lavoro appena presentato da Silvia. Musica con... Non il lavoro appena presentato, Sì, ah, è vero. Il lavoro misterioso. Il lavoro misterioso, grazie Silvia. Con sparring partner di Paolo Conte facciamo lo stacco musicale e torniamo in diretta dopo la pubblicità. 333-180-9494. Che gli manca la memoria in fondo ai guanti bui, ma il suo sguardo è una veranda, tempo al tempo e lo vedrai che si addentra nella giungla, non un incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai una calma più tigrata, segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da, da, da. Certi applausi ormai, sono dovuti per amore non incontrarlo mai, stava lì nel suo sorriso a guardar passare i tram, vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam. Away. Your nephew is sound, the smell and the spray. You will take them all away, and they'll stay till the grave. Your weary wife is walking away, your nephew is true and thinks the world of you, and I have to close my eyes. Complimenti all'ascoltatrice che ci mette in difficoltà. Intanto complimenti anche per la playlist a Silvia e Stefano. Questo è Morrissey con Boxers che procede. Qui invece sono pugili, non è sì, pugile. Sono plurali. Sono di più. Intanto io posso annunciare che Marco ha dato la risposta che noi abbiamo, appunto, abbiamo in mente. Poi è arrivata un'altra risposta che ci mette un po' in difficoltà, ma che pare sia allo stesso modo esatta. E questa risposta arriva da Michela. Io proporrei a Michela, per avere anche lei un libro sorpresa, lei dà risposta: Marco Falagiani, compositore, autore. Noi abbiamo fatto ricerca e non è sbagliata la risposta. No, non è sbagliata. Però io avevo chiesto chi è il cantante famoso, quindi io volevo l'interprete, ed è un interprete molto famoso. Se Michela ci manda anche il nome dell'interprete che ha scritto, che ha co-composto la canzone, sì, con Falagiani. Io non sapevo, quando io ho fatto il quiz, le mie informazioni mi davano il cantante come unico autore. Invece qui il notaio ci conferma che l'ha scritta insieme a questo signor Falagiani, che io non ho il piacere di conoscere, mentre tutti abbiamo il piacere di conoscere il cantante che canta Cassius Clay. Se Michela ci dice anche lei il nome di questo cantante, vai, le facciamo avere un libro misterioso. 333-180-9494. E saluto e ricambio, grazie, ciao Willy, buongiorno, sono Titti Peperita, ciao Peperita, buongiorno a te. Cosa ridi? Sarà un nickname, no? Titti Peperita, magari si chiama Concetta, non lo so, Tiziana. E Peperita da dove salta fuori? Non è Titti che mi fa ridere, è Peperita. È Peperita Patti, quella brava, di lì. Brava, è un omaggio. E intanto Michela ha risposto, Gianni Morandi subito. Ottimo. È Gianni Morandi. Va bene, era okay. Gianni Morandi. Grande Michela. Anch'io ho il quiz per voi, il quiz per avere l'ora di greco, il greco antico. Che passione e che maledizione anche a volte per chi ha avuto la fortuna e la possibilità di studiare. Per me, da autodidatta, è una passione nel conoscere questi caratteri così affascinanti e allo stesso tempo anche così difficili. Ma siamo in Corea, e questo che aggiunge ulteriormente una difficoltà, che da quel che ho capito ha un alfabeto e una struttura grammatica altrettanto difficile. Pensate, mettere assieme tutto questo a proposito di traduzione in una traduzione italiana, per cui mi permetto di fare i complimenti anche a Lisa Iobenitti, traduttrice della scrittrice Ahn Kang, coreana, classe 1970, con il lavoro per Adelphi, L'ora di greco. Lei già con il suo ultimo lavoro, La vegetariana, che ho avuto modo di non leggere, ma è mancato tanto così, la sua ultima pubblicazione che mi ha incuriosito tantissimo, ma sapete, bisogna fare anche delle scelte. Beh, questa volta invece è arrivato con L'ora di greco un continuum, anche se per certi aspetti potrebbe esserlo, soprattutto nel finale, e vi spiego anche come. Per un finale non voglio anticipare nulla, anzi ho appena iniziato, figuriamoci, però che può dare dare una buona notizia, ecco, diciamo così, anche perché la partenza vede una protagonista, una ragazza di 16 anni che misteriosamente perde l'uso della parola e anche del poter comunicare gestualmente per quello che lei vorrebbe dire, perde il verbo, no? E questa difficoltà la porta ad approfondire attraverso un professore non vedente, o per così dire in difficoltà anche egli per quanto riguarda un altro senso importantissimo, a una relazione amicale, che sarà amicale, punto di domanda, questo lo scoprirete voi. Ovviamente la relazione, la differenza di età, i percorsi della protagonista e soprattutto il linguaggio, e il linguaggio non solo per quanto riguarda il greco antico, ma anche il conoscere la scrittura dalla Corea. Anche questo è un altro aspetto che mi ha affascinato tantissimo, e vi sono tutte queste giravolte in una composizione letteraria, se vogliamo, non dico scarna, piacevolmente scarna, che mette proprio in questa microsensazione del linguaggio a confronto la storia di questi unici due protagonisti, una ragazza che non riesce più a esprimersi e un professore che è, diciamo, in difficoltà per quanto riguarda la vista, ipovedente, che purtroppo nel suo percorso avrà un aggravarsi di questa difficoltà. Edizioni Adelphi, la scrittura molto poetica, la struttura è veramente un tessuto che viene cucito man mano con poesia, con sogno, un sogno che diventerà concreto, una visione continua e allo stesso tempo una poesia continua. Quindi pensate un po' come i sensi del vedere e allo stesso... Oh, è partita la pubblicità, ma non deve partire, ha interrotto questa mia omelia di presentazione. Come la vista e allo stesso tempo il verbo siano, per così dire, i veri protagonisti di questo lavoro, che con tanto sentimento racconta questo titolo che può portare in difficoltà. Ma cosa c'entra? E no, c'entra, e come, l'ora di greco. E sono ben contento di metterlo in palio per voi. Prima però questo brano musicale, che è l'ultimo selezionato da Silvia. Il brano musicale è stato citato Bob Dylan, e tu hai portato chi? Questo protagonista, chi ha ucciso e chi è un pugile, questo? Sì, anzi, è una storia abbastanza triste. Molto triste, perché è un pugile che è stato ucciso dalle botte dopo, durante un match. Il fatto è che ci sono due pugili che hanno lo stesso nome, che combattevano nello stesso periodo e che sono morti tutti e due violentemente. Questo è morto, è quello a cui fa riferimento Dylan, è morto per le botte ricevute. L'altro, il suo omonimo, è morto tirando fuori la macchina dal garage che gli è finita addosso. È schiacciato tra la porta del garage e la macchina. No, non sul ring. Il nome del protagonista? David Moore. Who killed David Moore? Not I, said the referee. Don't point your finger at me. I could have stopped it in the eighth and maybe kept him from his fate. But the crowd would have booed, I'm sure, at not getting their money's worth. It's too bad he had to go, but there was pressure on me too. You know it wasn't me that made him fall. You can't blame me at all. Who killed Davy Moore? Why and what's the reason for? Not us, said the angry crowd, whose screams filled the arena loud. It's too bad he had to die that night. We'd just like to see a good old-fashioned fight. We didn't mean for him to meet his death. We just wanted to see some sweat. There ain't nothing wrong in that. It wasn't us that made him fall. You can't blame us at all. Who killed Davy Moore? Why and what's the reason for? Not me, said his manager. puffing on a big cigar. It's hard to say, it's hard to tell. I always thought that he was well. It's too bad for his wife and kids, he's dead. But if he was sick, he should have said it wasn't me that made him fall. E per avere questa struttura linguistica molto particolare, traduzione italiana, scritto in coreano, l'ora di greco che diventa allo stesso modo importante per risolvere le problematiche di comunicazione, è veramente un tessuto molto prezioso, è una seta, rimanendo in tema di sensibilità, la scrittura di Han Kang, che oltre a dare certo un'immagine così immediata, un'idea scarna, ma come ho detto, oltre che piacevole e raffinata, di questo incontro tra la ragazza giovane che ha problemi di comunicazione fino a perdere la parola e un professore nell'ora di greco che invece purtroppo ha grandi problemi con la vista. Saying fist fighting is here to stay, it's just the old American way. It wasn't me that made him fall, you can't blame me at all. Who killed? E per avere questo lavoro di Han Kang edizioni Adelphi, che potete ritirare alla libreria Ubic di via Irnerio 27 a Bologna, beh, è un quiz non facilissimo per quanto riguarda un aspetto geografico e bellico, ai noi in Corea, divisa da chiaramente nel contemporaneo dalla Corea del Nord alla Corea del Sud. Andiamo indietro nel tempo ricordando la famosissima, tristemente e cruenta guerra di Corea, e c'era un passaggio che era da un parallelo. Ecco, voi mi dite il numero che contraddistingueva il parallelo, che appunto viene oltrepassato da nord a sud durante questo conflitto, il parallelo numero. Aspetto la risposta al 333-180-9494. Grande Dino, meritatissimo, non mi hai neanche fatto finire il quiz. Guarda, sono ben contento di farti ritirare il premio. Dino risponde, è il 38esimo parallelo, il 38, esattamente, risposta esatta. Ringrazio anche Luigi, un altro super campione per quanto riguarda il voltiamo pagina. Jarno da Calderara arriva al terzo posto. Intanto vi ringrazio tantissimo per aver giocato con il Breakfast Club, per l'attenzione alla nostra rubrica letteraria che sta volgendo al termine e che ovviamente vi dà appuntamento a mercoledì prossimo. Walk my path in green gardens, drive my car on black highway, then I play my song on red guitar. Every day the colors come and dance for me. Every night they fade, then disappear. Appuntamenti, Silvia, per questa settimana live. No, fai una maglietta tipo i grandi gruppi rock. Silvia Albertazzi on tour, poi tutte le date. Sì, sono on tour ma in vacanza, quindi... Bene! Quindi, bene. Senti, volevo dire una cosa invece. Siccome tu hai fatto giustamente il nome della traduttrice, io me lo sono dimenticato, ma lo voglio fare adesso, certo. Perché ti ho detto una traduzione bellissima. Ne hai facoltà. Ne ho facoltà? Allora, la traduzione del libro La distanza di Ivan Vladislavich è di Carmen Concilio. Edipeo enciclopedico, liberi dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, coadiuvato da Piero Di Domenico, dopodiché il grande rock live con Nevio. Domani doppio appuntamento in mostra, quindi non perdete la prima colazione in diretta e siate puntuali dalle ore 7 con il Breakfast Club. Quest'oggi Silvia, relax, oggi prepari la vacanzina, oggi come cosa abbiamo in programma? Fai anche tu l'annunciatrice delle tue... parto oggi pomeriggio. A prepari la vacanzina. Sì. Quindi ultimi preparativi. Ultimi preparativi. Allora io ti auguro una buona vacanza, ti aspetto mercoledì prossimo e aggiungo anche che ringrazio chi ha partecipato al quiz dedicato al teatro per il Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto. Tanti ringraziamenti e anche un caloroso abbraccio a voi e l'augurio di una buonissima giornata. Ricordando che questo Voltiamo Pagina è stato curato e condotto da Silvia Albertazzi e da William Piana. Ciao. Ciao.